capisco, voglio decido come marinaio, guido la mia nave. Così la mia anima guida il mio corpo e dopo la morte nel sonno divino per l'eternità. Animus est mens et ratio, animus est mens et ratio. Sono fatto a immagine di Dio, a sua somiglianza. Sono intelletto e volontà, sono sguardo interiore nelle realtà superiori. Sono spirito che è libero, illuminato da Dio, capisce ciò che è eterno. La mia psiche è unica, la mia psiche è immateriale, la mia anima è immortale, la mia anima è immortale. Desidero l'infinito, desidero la meta, esisterò senza fine e resterà l'amore. Sono spirito che è libero, illuminato da Dio, capisce ciò che è eterno. La mia psiche è unica, la mia psiche è immateriale, la mia